nella folla alla fermata. Faccio per scendere, ma tu sei già salita. Questo non è un amore, è un incubo bello e buono. Ti guardo, sorrido, faccio l'amo, ma tu non fai buono. Che diavolo sei, una sorta di donna metallo. E nemmeno tradisci, se canta tre volte il gallo. Lavoro, lavoro, nemmeno uno svago. Sei un pezzo di legno, legato a uno svago. Scommetto che chi muove i fili ha già calcolato anche me. Quanto male mi fa. Quanto male, quanto male mi fa. Quanto male, quanto male ti fa. Se provi a darmi un bacio, sono sicuro ci guadagnerai. La notte ti penso e stringo forte il mio cuscino. È un mondo virtuale quello in cui mi stai vicino. Ma che posso farci? Non sono mica un microchip. A me piace ancora il ballo C2C, poterti guardare negli occhi, poterti sfiorare i capelli e la luna, tutta per noi. E invece mi trovo qui, appoggiato su un buio lampione, davanti all'hotel, aspettando che si apra il portone. Magari ti vedo soltanto per farti un saluto, ma io non ci credo all'amore di un solo minuto. Sei tutta stressata, di corsa alle scale, doccia, piega, gonna, giacca, tacco e corsa spaziale. Scommetto che mi manderai una mail intitolata I love you. Quanto male mi fa. Quanto male, quanto male ti fa. Quanto male, quanto male ti fa. Se proverai l'entrezza del mio bacio ti risveglierai.